Pane, burro, rock and roll. 7:30 minuti primi. Qualche problema? If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Noi non abbiamo problemi, perché è passato a trovarci Uè Fabione! Ciao, ciao a tutti, come state? Tutto bene? 13 novembre. Il nostro blues rocker di riferimento. Com'è andata ieri la trasmissione? Benissimo. Ma poi quando io vedo Edo, quando arriva Edo è come il Natale, quando arriva arriva. È una grande famiglia. Qualcuno mi ha chiesto, ma come ti trovi? È una grande famiglia, è come un team, come l'A-Team. Esattamente. Io voglio fare Murdoch, quello che lanciava le bombe. Senti, io gli altri nomi non me li ricordo, però il nero. Sai tu cosa? Ah, il nero, vuoi fare Pie Baracus. Ma ti vedrei bene anche come Hannibal, quello che aveva il sigaro in bocca e diceva adoro i piani ben riusciti. Ma io non amo i sigari. Sì, quello è. Ho smesso. Ho smesso tempo fa, grazie a Gino. Uè, anzi, Fabione. Lo saluto. Ciao Gino. Ti ringrazio per le paste, sono sempre. Alte le paste, i cannoncini. Cannoncini. Attenzione, c'è pasta e pasta. E pasta. E cannoncino. Il cannoncino è al di fuori della definizione di pasta, in quanto cannoncino. Tra l'altro erano precisi, insomma. Sono andato dal mio pasticciere di fiducia, ho detto bombalo bene perché devo festeggiare il mio amico Ariel. In ritardo, però dai, quello che conta è il pensiero. Grazie Fabione. Ciao, vado, è finita la mia ora d'aria. Sì. Time. di lavoro della nostra redazione in compagnia di Roberto Fricantoni per stanare i compleanni del giorno anche in questo martedì 13 di novembre. La vedo ancora con la fronte imperlata di sudore per il duro lavoro dei compleanni. Grazie per non aver detto imperlata. Eccolo. Di sudore, la cosa mi avrebbe scosso dalle fondamenta. Ciao, sì. Ciao, chi compie gli anni oggi? Il grandissimo Jimmy Fontana. Il mondo non si è fermato mai un momento. Cantante, attore, la notte italiano. Insegue sempre il giorno. Mi dovrebbe dire, guardi, si può fermi, bastare. Si fermi, ed può, il basta- giorno può bastare. Verrà. Mi creda, può bastare. Nasceva nel 1934. 1955. Chi nasceva? Un anno dopo Fricantoni, Whoopi Goldberg, attrice statunitense. Ma leggo qua anche sceneggiatrice, soprattutto produttrice. Lei è puntiglioso, sa? Insomma, ma la cosa che mi stupisce è che è anche una produttrice. Perché? Beh, in effetti lo stupore è mal riposto. Se penso a Robert De Niro che ha messo su... Ma cosa c'entra, la maestro? Sua casa... La sua casa di produzione. Torni in terra, le ricorderò un paio di film della Goldberg. Ma lei ha notato che tanti attori americani diventano anche produttori? E quando fanno la pilla, la devono far girare. L'economia gira, ha capito? Ma è per quello, non che lei per... non è ancora un produttore, dice. No, se, ma soprattutto che non è per lo smodato amore per no, l'arte no, cinematografica. Non credo, non credo. Diamo il beneficio di inventario alla Goldberg, che intanto ricordiamo nel Colore Viola, in Jumping Jack Flash e poi nel romanticissimo, nella Storia d'amore, quella con il vaso di terracotta manipolato. Se lo ricorda? Taxi Driver? No, no, ma era Ghost, fantasma. Beh, come mi, Taxi Driver? Mi faccia la domanda di recupero. Allora, quello con tutte le suorine che cantavano i gospel. E questa la so, sì. Questa la so. I Blues Brothers. Quasi, meglio della risposta di prima, ma in realtà era Sister Act. E chiudiamo con un bellissimo attore italiano, nasceva nel 79, il giovanissimo Riccardo Scamarcio. Certo che con un nome così, poveretto. Perché? Cosa dice? Scamarcio, beh, cioè, nomen, nascere con un nome faccia così. Faccia poco il fichetto, lei sa chi è Scamarcio, è l'idolo delle teenager. Ma veramente? Eh sì, il bellissimo Scamarcio. Dottor Scamarcio, io mi prostro e mi scuso, non sapevo, però lei deve riconoscere che il suo cognome sta un po' tra sì. Scamorza Mar e Marcio. Scamorza Mar, Scamorza, guardi, io che sono un grande appassionato di giochi di mistica, sì. Avrei detto Scamorza Marcia, ma con il massimo rispetto salutiamo. Per il dottor Riccardo, che salutiamo. Ciao. Cordialmente, ci perdoni e per il gusto della battuta che faccio tutto questo. E beh, che c'è? Hey! Prince e Sape & Queen, Mountain, nella diretta di PBR, Manneburro Rock and Roll, puntata 128. Ci sono alcuni momenti di questa trasmissione nella quale suonano come delle minacce le rubriche che vi proponiamo. È il caso di quello che sta per accadere in questo momento. Vi ricordo che vi attendiamo sempre via SMS al 335-100-7777 piuttosto che ad aria@radiorockfm.com. Coordinate che servono anche per lamentarsi, anzi è caldeggiatissima la lamentela per quanto riguarda l'interazione. Dicevamo, settimana scorsa agli amici della seconda ora abbiamo fatto gustare una canzone dei Beatles in italiano, ovvero Help, che si trasformava in Aiuto. Spadino ci teneva attentissimo a farla sentire anche a voi della prima ora, e quindi buon ascolto con Aiuto. E se i Beatles fossero nati a Gallipoli, l'avrebbero scritta così. Aiuto, ho bisogno di qualcuno, aiuto, non di uno qualsiasi, aiuto, sai che ho bisogno di qualcuno. Quando ero più giovane, molto più giovane di così, molto più di così, non avevo mai bisogno di nessuno. Ma ora quei giorni sono andati e non sono più sicuro. Ora scopro che le mie idee sono cambiate. Aiutami se puoi, mi sento giù. Io mi sento. E apprezzo molto che qui ci sia tu. Che qui ci sia. Aiutami a tornare coi piedi in terra. Non vorresti per favore aiutarmi tu? E adesso che la mia vita è molto cambiata, e la mia indipendenza sembra scomparire nella foschia, ma a volte mi sento davvero così insicuro. Lo so che ho bisogno di te come non mai. Aiutami se puoi, mi sento giù. E apprezzo molto che qui ci sia tu. Aiutami a tornar coi piedi in terra. Non vorresti, vorresti per favore aiutarmi tu? Quando ero più giovane, molto più giovane di adesso, non avevo mai bisogno dell'aiuto di nessuno in nessun modo. Ma ora quei giorni sono andati e non sono più così sicuro di me. Ora scopro che le mie idee sono cambiate e ho aperto le porte. Aiutami se puoi, mi sento giù. Io mi sento giù. E apprezzo molto che qui ci sia tu. Che qui ci sia tu. Aiutami a tornare coi piedi in terra. Non vorresti per favore aiutarmi tu? Yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as a ship out through my veins. And I will go on shining. Will be few. you don't, and some you just can't tell. And some they will and some they won't, but some it's just as well. You can laugh at my behavior, and that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go out shining, be shining like brand new. I'll never look behind. Noto un appunto della redazione su un uomo che compie gli anni quest'oggi. In realtà non li compie più, perché nasceva nel lontanissimo 1850 un grandissimo scrittore amatissimo da Roberto Fricantoni, che è pronto per un suo piccolo ma sentito editoriale. Lui si chiamava Robert Louis Stevenson, grandissimo scrittore scozzese. Di lui ricordiamo quantomeno L'Isola del Tesoro e Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde. E su quest'ultimo che vorrei richiamare la vostra attenzione. Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde, famosissimo. Sì, è straordinario, perché... Cosa vuole dirci? Beh, innanzitutto Robert Louis Stevenson nacque esattamente a metà dell'Ottocento. La no? Prende larga, sì. La metà dell'Ottocento e ne ha interpretato perfettamente gli umori, lo spirito, no? Lo spirito dei viaggi, no? A quei tempi la Gran Bretagna era grande. Si ricordi dei tempi radiofonici, le chiedo questa gentilezza, ma prego, continui. Sì, era grandissima potenza imperiale, dunque si viaggiava tantissimo. Non a caso Robert Louis Stevenson ambientò i suoi romanzi, uno appunto tra i più famosi, nell'Isola del Tesoro. Esatto, era un romanzo d'avventura. Un romanzo d'avventura, perché appunto i marinai britannici viaggiavano in tutto il mondo, e non a caso saltò fuori proprio un romanzo che parlava ma di queste avventure. Ma le chiederei di tuffarsi ma a bomba. Ma lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde è perfetto, perché... Lo confessi, sì. Lo dica. Perché, è un libro che mi sarebbe piaciuto scrivere. Ci sono altri libri che le sarebbe piaciuto scrivere. Tanti, la Bibbia, i grandi classici, per esempio. La Bibbia, il Corano, i Vangeli, ecco. E tra gli altri e tra gli altri, sa, bisogna avere modelli alti sì. per migliorarsi. E allora dicevo, lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché proprio coglie perfettamente il doppio che il bene e il male perfetto che è essenza di ogni essere umano, questa voglia di trovare un aiuto miracoloso che permetta di interpretare il bene e il male. Lei si sente più dottor Jekyll o più Mr. Hyde? Io mi sento a volte dottor Jekyll, ma più spesso Mr. Hyde. Mi tolga le mani di rosso! Con Stay di Jackson Browne che ci avviciniamo pericolosamente alle 8 del mattino, la nostra boa che giriamo per iniziare la seconda ora di diretta, una seconda ora ricca di sorprese. Restate ovviamente con noi, qualche secondo ai vostri messaggi immancabili, messaggi di commento delle nostre canzoni dei Beatles in italiano. Uè Fabione, il nostro bluesman di riferimento, diceva che gli sembrava molto quelle riunioni di CL con chitarra, oppure di scout con chitarra, no? Sì, lo spirito, la razza è quella lì, eh. Un messaggio recita così: quando il coraggio va oltre e raggiunge l'utopia, si chiama pazzia. Commento di Dario da Genova, alla vostra versione di Help. Occhio ragazzi, che prima o poi questa rubrica, quella dei Beatles in italiano, ve la porta via l'AMSA. Alena e Doc. Non ho dormito niente, ho fatto chitarre con la bocca tutta la notte cercando di scegliere. Questo è un radioascoltatore che si sta preparando bene e professionalmente al provino per diventare musicista rock con la bocca. Bravo! Salutiamo anche Joe, il suo commento è semplicemente: Dio mio, che paura. No, ma non spaventarti, resta con noi, eh. Un saluto a Duccio. E abbiamo un paio di amici. Saluto anche Fungo, che chiede di segnalare giovedì a Imola al Sonix ci sarà un concerto di beneficenza per celebrare un anno dalla scomparsa di un suo amico. Aiutatemi, segnalatelo. Fungo, l'abbiamo fatto, in bocca al lupo, divertitevi. Allora, un paio di segnalazioni invece che riguardano i dati Audiradio. Uno non è firmato, uno sì, è firmato 110 e commentava: ok, tanta carne al fuoco, ma i dati Audiradio, forse dobbiamo evocare lo spirito di Guglielmo Marconi per averli. Ariele, sei il solito cialtrone. Ehi 110, aspetta, te lo dico nella seconda ora, resta lì, calmo. Ehi Rugna, cosa fai? Frigo, sto facendo le parole crociate, senti un po' questa. 9 verticale, 7 lettere inizia con la C o C. Il cibo degli dei delle cavie. Caviale! Ah, grazie. E allora quest'altra, 17 orizzontale, 10 lettere. Si utilizza per stappare nei bottiglie. Caviatappi! Ma cazzo, Frigo, complimenti, le sai tutte! Stanno testando fosforo concentrato su di me. Sono intelligentissimo. Che invidia, complimenti, che invidia.